Storie italiane. Le pantofole stellate. C'era una volta una regina malvagia e odiosa di nome Margaret. Era cattiva e trattava i suoi sudditi molto male. Questa zuppa è assolutamente fredda. Guardie, mandatelo immediatamente nei sotterranei. Ma, vostra maestà, è stata fuori solo per un minuto. Il povero cuoco fu trascinato fuori dalla sala da pranzo senza colpa. Il più fedele di tutti i suoi sudditi era Ottaviano. Era malvagio e cattivo, proprio come la sua regina. La gente del suo regno non si lamentava del modo in cui lei li trattava. Andavano avanti con la loro vita, mangiando le loro croste di pane e facendo il loro lavoro. Una mattina, mentre due ragazze stavano dirigendosi verso la fontana, videro un bel paio di pantofole nel mezzo della piazza della città. Erano tempestate di stelle e brillavano come nessuna pantofola al mondo aveva mai brillato. Dio mio, quelle pantofole sono così belle! Sono splendide! Puoi vedere costellazioni e galassie che turbinano in quelle stelle! Da dove verranno quelle pantofole? Devono sicuramente essere un dono delle fate delle stelle! Le ragazze andarono presto a raccontare ai loro amici delle pantofole tempestate di stelle e in poco tempo la voce si diffuse in tutto il regno. Quando Ottaviano venne a sapere di queste pantofole magiche, pensò: dirò alla regina Margaret di queste pantofole e così mi ricompenserà. Ottaviano andò dalla regina. Le raccontò delle pantofole magiche e di quanto fossero belle. Nell'udire questo, la regina Margherita divenne euforica. Voleva entrare immediatamente in possesso delle pantofole. Vai a prendermi quelle pantofole proprio in questo momento, Ottaviano. Temo di non poterlo fare, maestà. Mi hai appena detto non posso? Come osi rifiutare qualcosa alla tua regina? Guardie, fatelo rinchiudere nei sotterranei! Proprio quando le guardie presero Ottaviano per sbatterlo nella squallida prigione sotterranea, egli strillò e disse: No, no, mia regina, le pantofole non possono essere prese. Aspettate! Si dice che solo chi ne è degno sia in grado di entrare nel possesso delle pantofole. Quando queste passano da una persona all'altra, questa diventerà degna delle pantofole magiche. Bene. Chiaramente nessuno è più degno di me, la tua regina. Andrò immediatamente a prendere queste pantofole. Portatelo nella prigione come vi ho ordinato. La regina chiamò la sua carrozza e partì per recarsi nella piazza. Una parata di valletti regali guidava la carrozza. Sventolarono le bandiere mentre annunciavano l'arrivo della loro regina nella piazza della città. Tutte le persone provenienti da varie parti della città si trovarono nella piazza intorno alle pantofole stellate per vedere cosa sarebbe successo all'arrivo della regina. Quando la carrozza raggiunse la piazza della città, i valletti reali stesero un tappeto rosso e si fermarono su entrambi i lati. Il valletto principale fece un passo avanti. Signore e signori di Zamania, vi presento Sua Altezza Reale, la regina Margaret. La porta della carrozza si aprì e la regina Margherita uscì salutando il suo popolo con la mano. Ma tutti gli occhi erano fissi sulle pantofole. Non sanno che sono qui? Proprio mentre la regina stava per infuriarsi con la gente per non aver notato il suo arrivo, vide le pantofole tempestate di stelle al centro della piazza. Ah! Quelle sono le pantofole più favolose che abbia mai visto in vita mia! La regina rimase ipnotizzata dalle pantofole e camminò così veloce che praticamente corse da loro. Grazie a tutti per essere venuti a testimoniare questo grande momento mentre indosserò queste pantofole, poiché io so che non appena i miei piedi le toccheranno, diventerò la sovrana più attraente, invidiata da tutti i regni conosciuti dall'uomo. Così la regina fece un passo verso le pantofole, si tolse i tacchi d'oro e sollevò il piede per metterlo nelle maestose pantofole. Proprio mentre stava per appoggiare il piede, la pantofola tempestata di stelle scivolò di lato, facendo così perdere l'equilibrio alla regina malvagia che cadde. La gente cercò di trattenere le risate, ridacchiando un pochino sotto i baffi. Di cosa state ridendo? La regina si rialzò e fece un altro tentativo con le pantofole. Vedete, sono molto stanca per aver viaggiato fino qui. Ecco perché non riesco ad indossare queste pantofole. La regina diede un'altra possibilità alle pantofole e le pantofole si allontanarono di nuovo. La folla rimase sorpresa nel vedere che la loro regina non era in grado di indossare le pantofole e cominciarono a sussurrare tra di loro. Sembra che la nostra regina non sia degna. Lo sapevo, solo una persona con un'anima brillante come i raggi del sole e gentile come le gocce di luna può essere considerata degna di tali pantofole fatte di polvere di stelle. La regina si arrabbiò nello scoprire che non era in grado di indossare le pantofole e tornò a palazzo. Proprio mentre la regina Margherita si stava sedendo sul suo trono, preoccupata e infuriata, uno dei suoi sudditi reali le si avvicinò dicendo che Ottaviano sapeva come ottenere le pantofole. Portatemelo qui adesso! Voglio sentire quello che ha da dire. Ottaviano fu liberato dalla prigione e portato dalla regina. Dimmi, Ottaviano, cosa posso fare per ottenere quelle bellissime pantofole stellate? C'è una principessa dalla terra di Nokovia. Si dice che sia la più bella e ricca e sicuramente può essere degna di queste pantofole. Mi stai dicendo che dovrei lasciare che qualcun altro porti via le mie pantofole? Oh, no, Vostra Maestà. Le chiederemo di darvele una volta che le avrà indossate e lei diventerà la più bella di tutta la terra. Capisco. Invia un messaggero al suo castello e di alla principessa che aspetterò il suo arrivo. Il giorno dopo arrivò la principessa di Nokovia e andò nella piazza della città dove si trovavano le pantofole. Provò a indossare le pantofole, ma tutto invano. Le magiche pantofole sfuggirono anche ai suoi piedi. Inutile! Non hai fatto niente di buono! Quelle pantofole non sono ancora mie! Perdonatemi, maestà! Troverò subito una soluzione! Ottaviano pensò per un po'. E poi decise di andare dalla vecchia eremita nella foresta. Raggiunse l'eremita, che gli parlò della figlia di un pastore di nome Alice. Si dice che Alice sia la persona più gentile in tutta la nazione. Con un'anima brillante come i raggi del sole e gentile come le gocce di luna. Bene, questo è esattamente quello che stavo cercando. Ottaviano ringraziò l'eremita e andò alla ricerca della giovane pastorella. Quando finalmente la trovò, le raccontò tutto. Alice accettò di aiutare la regina. Insieme andarono nella piazza. Vedendo le pantofole, Alice fu molto scettica. Oh, non so se sarò in grado di farlo. Sembrano troppo grandi per i miei piedi. Tutta la gente stava aspettando impaziente che Alice indossasse le pantofole magiche. Mentre sollevava il piede, la pantofola con le stelle si avvicinò al piede e si ridusse perfettamente della sua misura. La pastorella è degna! Proprio mentre Alice indossava le pantofole, fu circondata da magici scintillii di polvere di stelle. Meraviglioso! Assolutamente meraviglioso! Ora non ti resta che darmi le pantofole! Veloce! Alice annuì e consegnò felicemente le pantofole alla regina. Proprio mentre la regina Margherita indossava le pantofole, i magici bagliori della polvere di stelle circondarono lei e la pastorella. La regina indossava ora i vestiti della pastorella e Alice si ritrovò ad indossare l'abbigliamento reale della regina. Cosa hai fatto? Ti ordino di annullare tutto subito! Non sei più la regina! Guardie, portate immediatamente la povera donna nei sotterranei! Traditore! Come osi tentare di mandarmi nei sotterranei? No, aspetta! Pagherai per questo, Ottaviano! Aspettate, non è necessario mandare nessuno da nessuna parte. Sono sicura che ci deve essere una soluzione. Non voglio essere regina. Tutti rimasero scioccati da questo. Non pensavano che Alice fosse così gentile e altruista. Proprio in quel momento parlò l'eremita che si trovava lì. Le pantofole si sono unite ad Alice perché è degna. Anche se non le indossa, ascolteranno solo i suoi ordini. Per invertire l'incantesimo e farla ritornare regina, dovresti perdonare alla regina Margaret tutte le cattive azioni e il malvagio comportamento nei confronti del suo regno. Alice, essendo una persona gentile e umile, perdonò la regina. Ah, chi sono io per perdonare Sua Maestà? Ma se è quello che serve per invertire l'incantesimo, allora sì, ti perdono, regina, con tutto il mio cuore. Non appena lo disse, le due furono circondate da una magica polvere di stelle e la regina Margaret tornò ad indossare il suo abito. Le pantofole tempestate di stelle tuttavia tornarono ad Alice. Oh, grazie mille! Oh, gentile fanciulla! Ho capito tutto il male che ho fatto! Ora so che è importante essere umili e gentili! Non desidero più quelle pantofole! Lavorerò per diventare una regina degna per la mia gente! Tutti erano felici di sentirlo. Viva la regina Margaret! Viva la regina Margaret! Viva la regina Margaret! La regina Margaret fu grata e diede alla gente del suo regno un paio di scarpe e cibo in abbondanza per sfamare tutte le famiglie e tutti nel regno di Zamania vissero per sempre felici e contenti. Nel frattempo, Alice restituì le pantofole con le stelle e vennero tenute nella piazza della città. Lì brillavano e scintillavano, ricordando a tutti che essere gentili e degni è la cosa più importante.